prova sconsiderata su quello che succederà e magari su quello che non sentirete mai. Va buono, quanti siamo? 1, 2, 3. Mi sa tanto che incominceremo con le presentazioni. C'è stata questa richiesta di fare un jingle, mi dicevano, ma fallo pure per presentare la trasmissione, no? A questo punto mi armo di microfono, cuffia e registratore di quelli che veramente non si dimenticano mai e proviamo un po' a dire che da adesso, da oggi praticamente, sono certo che saprete già di essere in transizione di fase. Questa radio web è nata ormai da un bel pezzo, ci sta vedendo impegnati in un bel po' di persone da un bel po' di parti diverse, un bel po' di posti diversi. E niente, saremo qui a dircela ogni tanto su quello che pensiamo, su quello che succede soprattutto, perché ci teniamo anche aggiornati su quello che il cesso a cartella ci propone di volta in volta. Vabbè, dalle iniziative ai concerti, alla manifestazione, alla presentazione di un libro, a altre milioni di cose che potete provare, troverete di certo anche sul sito del cesso stesso, da cui prenderà vita praticamente tutta la nostra trasmissione, perché si riferirà per forza di cose a quello che ci proporrà quel posto. Per adesso teatro degli orrori, ma quel pazzo là lo lasciamo parlare come vuole lui e per come si sente, perché Violi, questo discorso al Partito Comunista Italiano è proprio da pazzi. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Non è la Bibbia. Carmelo Bene, lettera aperta al Partito Comunista Italiano. Compagni! Camerati! Mi spetterebbe, come disse Majakovskij, un monumento da vivo. Sono io colui che non vi spiegate. Ancora ieri, poi, stanotte ormai sono quel tu generico, la statua di un centravanti dell'azzurro in corsa, con la testa tra i piedi, senza palla, 100 all'ora del campo, sono l'affanno che si disamora trovando tondo tondo nella rete nient'affatto avversaria, un mondo già segnato da nessuno. Ed ecco fatto quello che non faccio, ed ecco detto quello che dicevo, ecco premiato quello che volevo. Esatto dirmi che non sono esatto, eccomi morto quando più vivevo. Tattica. Tu non sai stare al gioco della corsa. Risultare. Torna, ma stanotte, se vuoi tornare, dopo la partita, che bianca, verde, rossa, oltre Montale è finita, lo sai, perché è finita. Dentro un solo comune meriggiare è l'eccezione che credevi tale, occasione di folla sminuita. Il tuo tardo arrivare rimette in palio il palio di una vita. Vinta! Quell'altra notte, in fondo al mare. La speranza è tanta che non mi basta più, ma è tale che mi avanza come musica la vita. Esempio perfetto dei discorsi dei nostri potenti, no? Parliamo di tutto e di niente, tanto cazzo ce ne portiamo, prima o poi ci accorgeremo che ci stanno vogliando per il culo. Molto teatrale, con pause molto di quelle pensate, di quelle... sì, teatrali alla fine, però d'altronde rispecchiando passo passo quello che fanno in TV, che fanno in radio, che fanno da tutte le parti, sui giornali, non li senti sul giornale, però sono in un teatro. A bag of nerves, I seem to suppress, and an opinion not known to duress. Moonshine, a moonshine. There's something in that place I cannot possess. Sunday, we'll be down again. I'll fight no meaning, I'll shout out and rain. Moonshine, a moonshine. I'm big as Tuesday, I see no applause. Now I'm here to love it, but you still go on. My faith has been shown in the fire. I'm schooled in the test of time. Moonshine, a moonshine. There's something in the things I cannot possess. I'm never certain, I seem to explode. Luca Carboni, no? Beh, mille liste, tutte queste discussioni qui tra di noi. Ieri Luca Carboni ha fatto l'ultimo album Musiche Ribelli, che è veramente molto tirato. Ma non è che sto scherzando, cioè ci sono cose del tipo, ho visto anche degli Zingari Felici, non ricordo di che, di Sinigaglio, Raggio di Sole di Francesco De Gregori. Ne ha messo uno di Lolli, di Claudio Lolli, che adesso non mi ricordo nient'altro. Vabbè, Musica Ribelle di Pinardi, a Pedro Twarms, di Franco Battiato, e poi quella che ho passato era L'Avvelenato di Francesco Cuccini. Cioè, voglio dire, non è che ci vuole un fisico bestiale, è quello che è passato di Luca Carboni. Il resto è tutto da scoprire, no? Comunque sia, quantomeno da apprezzare per il suo tempo. Sono il capo dei briganti, inseguito, braccato. Ma sono il vero napoletano e quell'altro è un rinnegato. Son l'erede di Robin Hood e difendo i disperati dallo stato della vergogna con l'aiuto degli affiliati. Sono il capo dei briganti, sono stato scomunicato e combatto la guerra santa nell'anonima del peccato. Questa è terra di frontiera, questa è terra di nessuno, se il tiranno la rivuole sarà muro contro muro. Qui è la fabbrica dei miracoli, qui è il santuario dei dannati, la miseria aizza i diavoli nel reparto agitati. Fortapace a Gricignano è assediato dagli indiani, non si sentono più al sicuro neanche gli americani. Noi stiamo cianguiato, ma siete arrivati qua. La vita regnata di santa, la legge non fa mità. La vita brugliata di carta, ma i briganti sono andati qua. E mostrano con tutto il mondo, si me la provai so. Sono il capo dei briganti, protettivo, spietato, disprezzato, osannato, ingiuriato, temuto. Questa è lotta senza quartiere, siete tutti avvisati, nel frastuono del vostro sdegno, nel silenzio dei carri armati, nel frastuono del vostro sdegno, nel silenzio dei carri armati. Abbiamo ascoltato in sequenza un paio di canzoncine così del tipo Moonshine di Paul Felder, l'album è, se non sbaglio, Wake Up the Nation, una cosa del genere. Poi abbiamo ascoltato uno degli ultimi di Edoardo Bennato, mentre qua in Google mi parte la cosa del Pac-Man, che di così è carina, però se rompe un po' di meno magari è meglio. Il capo dei briganti, le vie del rock sono infinite. Ecco, anche Bennato abbastanza controverso come artista, o quantomeno le interpretazioni sono abbastanza controverse, no? Però io direi, tu che mi ascolti capisci, no, che c'è da prendere di buono anche un po' dalla merda, per dirlo così in tutta onestà. E comunque sia, un Edoardo Bennato con la merda c'ha poco da fare, se non potrebbe essere paragonato un po' di concime, no? Saggio, per cacciare gli afidi, queste cose. Ma hanno detto che ci sono gli afidi nell'orto, tipo, ci sono i vermi tra il basilico e il prezzemolo. Io non gli metterò niente di chimico, figurati, proprio niente, una zappugliata così quando capita, semmai, no? Aspettiamo la pioggia che depura, no? Sempre che ce la conceda il buon Dio, che ci conceda l'acqua anche. Dire pubblica deve essere, pubblica rimane anche quando cade dal cielo. La prossima metterò, non lo so, quello che, ma un po' a come mi spila, a come, alle voglie che avrò sul momento, una cosa del tipo boh, non lo so, vediamo un po' qualcosa alla cameriere, qualche cosa di jazzato. Il tempo di trovarlo qui sulla rubrica. Nient'altro. Radar rimane sempre dalle 22 alle 23, sempre su Tradizione di Fase. È una rubrica in cui si cerca di, voglio dire, coprire un po' di pause, passare un po' di musica del 2009-2010, soltanto quello, perché poi già di Seeds, di Led Zeppelin e di Kinks ce ne abbiamo un po' le orecchie piene, no? Ci si può sempre supportare negli altri programmi di Transizione di Fase. Transizione di Fase.org. Thank you. Allora, ci siamo ascoltati Teresa nel Teatro degli Orrori, l'ultimo EP raro, sì, raro EP di quest'anno, un paio di ritrovi, di nuove formule rispetto alle vecchie tracce, tra cui Teresa, una cosa un po' più gridata. Dopo cosa c'era? Black Ace, tra l'altro ho consigliato proprio quest'album come miglior album del mese, è Brothers, un gruppetto così abbastanza sconosciuto, sono americani, annoverati tra il garage punk e il punk blues, vabbè poi ognuno gli dice la sua, sai, no? Va a tempo con le notizie, mi fa... Una cosa era garage punk, punk blues, quello che è un disco tutto da scaricare. Da segnalare un paio di appuntamenti: domani 24 maggio ci sarà la presentazione al cesso della cartella dei Servi, un libro di Marco Rovelli, sottotitolo è Il paese sommerso dei clandestini al lavoro. Sarà presente proprio lui, l'autore, che tra l'altro è scrittore, musicista, insegnante, e che 3 anni fa aveva già scritto Lager italiani e Lavorare uccide, sì, questi 3 libri appunto sempre di Marco Rovelli, che ritorna alla ribalta con Servi. Adesso Sicky Boy, Robin Hitchcock, The Venus Tree, un album da pazzi praticamente. Proprio per time, tutto da ascoltare. Bigger O Clip, featuring me, Robin Hitchcock, and the Venus 3, Peter Buck, Scott McCoy and Bill Reflin. Special guest stars Chris Ballew, Morris Windsor, Ruby Wright, John Paul Jones, Nick Lowe and Johnny Marr. Recorded by Charlie Francis, from an idea by Michelle Noack. Thank you for listening. Ti vogliamo bene, uomo malaticcio. Nonostante ciò che hai combinato, nascondendo la verità, nonostante il tuo sorriso beffardo, non cerchiamo che quella sottomessa sferzata di vita. Vogliamo solo volerti bene, anche strangolando gli amminchamenti, anche strappando tutto dal tuo orto. Ti vogliamo bene, uomo malaticcio. Praticamente, sicky boy. Era quella cosa da pazzi da cui si traeva un po' di felicità, diciamo. Ma sai, in due si fa ben poco. Tantomeno tutta transizione di fase può ancora sperare di non impigliarsi in discorsi un po' troppo estremisti, come dire, cioè. Abbiamo appena ascoltato qualcuno che arriva direttamente dall'America, cioè, alla catanese detta. Quindi altro che anti-americani o altro che anti-qualcosa. Anche dall'America ti, non lo so, un caravan su di una macchina su cui starci per ore. Acquistarci per mesi magari. Radar resta sempre qui, se ne frega di tutto, ci fa ascoltare dalle 22 alle 23. Mi sentivo un po' Marzullo, però voglio dire, cioè, sai, ti recita quelle cose a memoria, ma nonostante ciò sembra che renda. Transizione di fase è sempre quella radio che ogni tanto un punta, perché sapete, sto web ogni tanto non va. Dunque si può anche pensare di mettere qualcosa in sottofondo e poi farlo sfumare in automatico, perché questo Cypress Hill andato degli anni 80 lo combineremo un po' meglio rispetto alle prime tracce che avete già sentito. Comunque tutto è un work in progress, quindi a man mano che ci specializziamo escono le cose un attimo un po' meglio, i consigli poi non li accettiamo. Di destra o di sinistra che siano, poi abbiamo il nostro filtro, no? Cioè, tendenzialmente di sinistra, tendenzialmente anarchico. Però voglio dire, adesso non ci mettiamo a fare discorsi alla Gesù Cristo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifice, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia e per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo io passo la testa, siano stati libri o il mio provincialismo. È un cazzo in culo, accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, sono quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa lo sia. Però non ho mai detto che a calzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso e come posso, quando ne ho voglia senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua so a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o

come a la lover thinks he was another. And I'd lie for you and cry for you and pop for you and break for you and hate for you, and I'll hate you too if you want me to. I gotta do my love for you, driving screws. Painted red for you, it's true, it's true. Poor Badoo, thought I was through with you. Guess I'm a fool for you. Love from high, new frontier. Erika Badu, artista di Dallas, sì, si barcamena tra il soul e il funk, rhythm and blues. Il suo ultimo album è questo che ho presentato appena, New America Part 2. Diciamo che se l'è cavata bene, proprio un bel gioco nel tempo, un bel gioco con sempre da trovare come torrent. D'altronde, cioè, a Viland cantamos di CD. Voglio dire, come ti ascolti un LP di quello originale è tutta un'altra cosa, lo senti più tuo, magari vai a comprartelo. Per il resto leggevo sull'Anza il fatto delle intercettazioni. Vabbè, dopo che ci siamo sorbiti la Santanchè che fanno intercettare un mafioso è una violazione della privacy. Vabbè, ce la possiamo pure tenere, tanto poi andrà dalla setta a dire un bel paio di mea culpa. Intanto aspettiamo che diventi anche senatrice, o come si dice, senatore anche per le donne, sì, in effetti non fa differenza. Sempre là, agli alti vertici restiamo, sempre col radar. Para de explicar. Per chi non avesse visto Gatto Nero, Gatto Bianco, un ritorno a Goran Bregovic. Figlioli, la felicità che c'hanno quelli, ne porto. E ne fanno tipo un, ti posso dire, una decina per ogni donna di figli. Dopodiché pensano a rubare il rame, come si dice. Non contando anche che magari se la passano meglio di noi. A proposito, a Roma è successo adesso ultimamente uno degli ultimi casini con queste baraccopoli, chiamiamo così, dei rom. Quindi le armi di distrazione di massa continuano a fare il loro effetto. Dice che c'è un buco di 28 miliardi, di non so quanto, ma intanto guardate, c'è i zingari che fanno bordello a Roma. Poi c'è la partita del cuore che deve recuperare 1 miliardo di euro. Poi un altro paio di cose, i preti pedofili non la finiscono mai di fare notizia. Quindi per il resto andiamo benissimo. Radar ce la può impugnare qua, perché alla fine chi è che ci sente? Siamo noi 3-4 persone, diciamo, il Bozz ha sparato sta minchiata, ma il Bozz adesso ne spara ancora un'altra. Però nella sostanza, voglio dire, il Berlusca e l'Aldura, insieme a quell'altro che è un po' meno duro però, Quindi piano piano mi pare a me che ce li cacciamo dai coglioni. Poi bisogna vedere quanto ce li vogliamo cacciare dai coglioni in fretta, quanto in fretta si può fare, quanto in fretta vogliamo farlo. Vediamo un po', tanto zappiamo un dofavo. Di matrimoni e scandali in TV, sepolcri imbiancati e dipinti da noi che non siamo Zulu. A volte pensiamo che tutto è sbagliato davvero. Non contano più merito e lavoro di chi a quest'era triste dà di più. Un semplice presenzialismo austero e camuffarla senza di virtù. Nessuno ha fatto niente per cambiare, regna solo ipocrisia. Assente la cultura e si fa sempre gara a chi ruba di più. Possibile che in mezzo a tanta gente nessuno poi che veda quanti inganni, sfidate di cervelli vuoti e niente, la fatta da padroni fino a qua. Anni tristi come la tua impostura, cataclismi sulla magistratura, nel gioco retto ancora dal sistema non si pone più problema. Nessuno tra di voi che aspira al vero in questo strano ministero. Questo è un paese di finti, di matrimoni e scandali in TV, sepolti, imbiacati, dipinti, gente che non ne può più stare a sentire soltanto parole, parole. Oh yeah yeah, it's good. Ma tutti fila a dare premi assurdi a chi da qualche nuovo mecenate è stato messo lì per la paura che le sporcizie vengano svedate. Così in 2 giorni nasce un santo e qualche volta vedi poi succede che se qualcuno cade giù si applaude e si continua in malafede a fare finta di essere innocenti. Di destra o di sinistra cosa importa? storia è come un tunnel senza uscita. Ma il palazzo del potere sai che porte non ne ha. Anni tristi, pieni di paura, equilibrismi di una legislatura. Si vota tutti gli anni per cambiare, però poi non cambia niente. La frutta costa come la benzina e non lo trovo divertente. Questo è un paese di finti, di calcio, di politica in TV. Democristiani e leghisti, nel senso rimane tabù. Finché la notizia di quel presidente in mutande fa il giro del mondo e diventa una cosa che fa. Nostra è qualunque, una diva, una celebrità. Out of the Shell, dopo di me, ho praticamente sforato. Radar, domenica prossima. Ciao a tutti.